Ho scritto un concerto per te, le note mi vengono dal cuore. Aggiungo parole, la voglia mi assale, ti voglio, dai vieni da me. Rileggo una frase già mia e mi accorgo che è una semplice poesia. Mi siedo al mio piano, ti prendo per mano, ti guardo, poi suono per te. Sei bella quando ridi così, lo sai che ti amo ogni giorno, ogni dì. Sei dolce se mi ascolti così, quando mi baci non resisto più. Ho scritto un concerto per te, mi sono innamorato davvero. Ti sogno la notte, ti parlo, ti vedo, vorrei star sempre con te. Certo è per te, vorrei suonarlo per sentirmi più importante. Gridare il tuo nome col vento, col sole, più forte, poi canto per te. Sei bella quando ridi così, lo sai che ti amo ogni giorno, ogni dì. Sei così, quando mi baci non resisto più. Ho scritto un concerto per te, mi sono innamorato davvero. Ti sogno la notte, ti parlo, ti vedo, vorrei star sempre con te. Certo è per